Grazie Noemi. Avete visto che io e Noemi ci siamo vestiti uguali? Cioè, con gli stessi colori, non uguali. Sono i colori dell'autunno, ragazzi. Se non avete una cosa verde, una cosa khaki o, insomma, o beige, insomma, siete un po' out, mi dispiace. Ragazzi, a voi in prima fila. Il bianco e il nero non va quest'anno. Mi dispiace dirvelo. Eh sì. Perché sto facendo lo spiritoso sui vestiti? Perché è stato il primo esempio che mi è venuto in mente stamattina quando ho detto: per cosa posso ringraziare Dio? Io posso ringraziare Dio anche perché stamattina potevo scegliere fra due camicie. E non è scontato che io possa scegliere fra due camicie. Per cosa puoi ringraziare Dio? E non per i grandi miracoli, ero morto e ora sono vivo. Wow, è straordinario. Chi non potrebbe dire grazie a Dio davanti a una cosa del genere? Ma poi, diciamo grazie a Dio per la camicia. Ho la camicia mia perché me la sono comprata io. Questo è l'inizio di questa bellissima mattinata che avremo insieme, perché partiremo dal ringraziamento, però poi vedremo come questo concetto, così tanto presente nella Bibbia, dall'inizio alla fine, è molto di più di una, come dire, forma di bon ton, di educazione nei confronti di Dio. Qualcuno ti dà e tu devi dire grazie. Noi utilizziamo molto spesso questo grazie di educazione, che è buonissimo, è giusto. Ma il ringraziamento che viene presentato nella Bibbia è molto di più. La Bibbia ci invita a ringraziare Dio e credo poi fondamentalmente perché può essere la maniera pratica, quella reale, quella che possiamo utilizzare giorno dopo giorno, momento dopo momento, quando vogliamo dare corrispondenza ad esempio al Salmo 34:1 che dice: la sua lode sarà del continuo sulla mia bocca. E io mi vedo lì dalla mattina alla sera con la chitarra, forse Fabio lo fa, non lo so, dalla mattina alla sera con questa chitarra a lodare Dio, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Amen. Ad avere il tempo, Pino, ad avere il tempo e a saper suonare la chitarra, io lo farei. Però non so cantare, non ho il tempo per stare dalla mattina alla sera a farlo, non so suonare la chitarra e quindi io sono fuori da questo verso. No. Coltivare la gratitudine nel cuore è la maniera pratica, concreta, reale per poter avere una lode continua nei confronti di Dio. Ma non parleremo di lode. Ringraziare Dio è lodare Dio. Ma è ancora di più. Sono proprio voluto, come dire, andare a scavare. Quindi vi va di venire con me in questa perforazione della parola di Dio per andare ancora più nel profondo e capire perché così tanto Dio ci invita ad essergli grati. Ha bisogno del mio grazie? Non credo. Quel grazie a Dio serve a me. Stamattina capiremo come il ringraziamento attiva un processo di conoscenza e di azione. Il ringraziamento serve a questo. La parola di Dio ci invita ad essere grati a Dio fondamentalmente perché serve a noi, per poter conoscere Dio, per poter capire chi siamo noi in Cristo e soprattutto per poter capire a cosa siamo chiamati. Praticamente, che cosa dobbiamo fare? E lo capiamo quando ci portiamo a coltivare gratitudine nel nostro cuore. E cominciamo da questo Salmo, Salmo 116, non tolgo il primato a chi, insomma, a Gianluca che porta avanti una serie sui salmi, però insomma, mi è piaciuto questo salmo, non è che non posso più prendere un salmo per poter predicare, scusami Gianluca. Salmo 116, versi dall'1 al 9. Io amo il Signore perché ha udito la mia voce e le mie suppliche, poiché ha teso l'orecchio verso di me. Io lo invocherò per tutta la mia vita. I legami della morte mi avevano circondato. Le angosce del soggiorno dei morti mi avevano colto. Mi avevano raggiunto la disgrazia e il dolore. Ma io invocai il nome del Signore. Signore, libera l'anima mia. Il Signore è pietoso, è giusto. Il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i semplici. Io ero ridotto in misero stato ed Egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha colmata di grazie. Tu hai preservato l'anima mia dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi da cadute. Io camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Questo salmo È un salmo che presenta perfettamente quello che vi ho detto inizialmente con questa frase un po' enigmatica. Il ringraziamento attiva un processo di conoscenza e un processo di azione. Il salmista deve aver passato qualcosa di davvero brutto, visto che si paragona, cioè paragona la sua sofferenza alle angosce che si potrebbe pensare nel regno dei morti. La disgrazia, il dolore, la sofferenza. Cioè avrà avuto qualcosa di pesante, pesante, pesante. Ma la prima cosa che lui dice è: io ti amo Dio. Prima considerazione. Dio conosce benissimo qual è la realtà che ci circonda e vuole anche che la descriviamo. Ma prima di descrivere a Dio quanto è triste la nostra vita, ricorda a Dio quanto lo ami. Perché nel momento in cui diciamo a Dio: Dio, io ti amo, io mi ricordo che Lui mi ama. E nel momento in cui mi sono ricordato che Lui mi ama, la mia prospettiva delle cose, la mia analisi delle situazioni intorno a me cambia. È sempre brutta la situazione, è sempre difficile, è sempre una disgrazia, ma vuoi mettere che Dio mi ama? Allora, fra lo stato di analisi oggettiva della realtà e un'analisi oggettiva della realtà più il fatto che Dio mi ama, qual è la cosa migliore fra le due? La seconda. Ci stiamo fino a qui. Il salmista ci ha invitato a fare questa cosa. Ricorda a Dio quanto lo ami. Quanto ami Dio? È una domanda che faccio quasi ogni domenica ai bambini. Quanto amate Gesù? E loro lì con le loro braccia così, cercano di allargare anche le gambe a volte. Perché? Perché deve essere tanto l'amore che noi dobbiamo avere nei suoi confronti. Se il mio amore nei confronti di Dio diminuisce, beh, la mia disgrazia sarà molto molto più grande di quella che io posso immaginare. Ama Dio con tutto te stesso. Non ti fermare nel far crescere l'amore che hai per Dio. Ma il Salmo continua. Il salmista invoca l'aiuto di Dio. Dio, libera la mia anima. A questa richiesta fa seguire subito qualcos'altro. Una descrizione di chi è Dio, una parte di Dio. La sua pietà, la sua giustizia, la sua misericordia, la protezione che lui ha nei confronti dei semplici. Dio ha bisogno che noi gli ricordiamo come lui è? No, serve a me. Quando io mi ricordo chi è Dio e quindi comincio a descrivere Dio, nuovamente sto dicendo a me stesso: Luigi, non ti azzardare a ridefinire il carattere di Dio. Perché molto spesso io incomincio a dire: Dio forse è un po' troppo impegnato con le cose grandi di questo mondo per interessarsi al problema che ho al dito, mi fa male il dito. Vabbè, Dio deve pensare a tante altre cose serie, non credo che sia interessato a me. Domenica, diceva Noemi, due domeniche fa, diceva: c'è qualcuno che sembra le cui preghiere vengono ascoltate maggiormente da parte di Dio e le mie preghiere un po' meno. Non è una frase a ridere, per quanto possa risultare. Io l'ho detto molte volte. Sembra che Dio, tu benedici alcune persone più di quello che benedici me. E se proprio te la devo dire, Dio, a me sembra che io debba ricevere di più di quella persona. L'avete mai detto a Dio questa cosa? Io tante volte. Ricordarmi, e qui noi ridefiniamo chi è Dio. Lo facciamo troppo personale. Dio è Dio. Non lo possiamo cambiare. Quindi quando ci andiamo a ricordare chi Lui è, Dio prende onore, prende gloria, ma io in prima persona ridefinisco, mi focalizzo su chi realmente è Dio. E poi il Salmo continua ancora e arriva a questa terza considerazione sul riposo. L'anima mia ritorna al riposo, dice il salmista. Perché ritorna al riposo? Perché Dio ti ha colmato di grazie, i doni che Dio ci fa, la benedizione, la protezione, l'amore suo nei nostri confronti, tutto quello che tu puoi aggiungere. Lì la nostra anima trova riposo. Ma voglio fare una considerazione un po' più specifica su questo verbo che sta all'inizio. Ritorna. Perché ritorna? Il verbo ritornare prevede che prima ci sia stato qualcos'altro, un allontanamento, uno smarrimento. La mia anima si è smarrita. La mia anima ha perso la connessione con Dio. La mia anima ha ridefinito l'identità di Dio. Ed è ovvio che la mia anima ora è sofferente. È ovvio che la mia anima non sappia più dove trovare pace. nel tornare a Dio il riposo per la nostra anima. E il salmista lo dice chiaramente questa cosa. Quando possiamo allontanarci dal, possiamo far allontanare la nostra anima da Dio, non significa che non amiamo più Dio, non significa che non credo più in Dio, attenzione, ma è qualcos'altro di molto più subdolo, qualcosa che si insinua, è una distrazione. La nostra attenzione si sposta da Dio a qualcos'altro, ed è molto facile capire che cos'è quel qualcos'altro, è la vita che ci circonda. La cultura, la società, i problemi al lavoro, i problemi a casa, la malattia, sono delle distrazioni così grandi e così reali che ci sfiaccano, ci tolgono la stessa energia, lo stesso entusiasmo di poter andare da Dio. Ed è qui che noi siamo chiamati a fare un'azione. Sì, perché Dio, nel suo essere contro gli schemi, rompe un altro luogo comune. Se io vi dicessi la parola riposo, che cosa vi verrebbe in mente? A dormire. Una bella chaise longue, qualcosa da bere, e forse Dio seduto lì e dire: beh Luigi, dimmi tutto quello che non ti va nella vita, e io ti risponderò. No! Cioè Dio qua dà un'immagine completamente diversa di riposo. Sapete che dice? Ti vuoi riposare? Allora cammina. Cammina la presenza di Dio. Qui la rivoluzione. Signore, ho bisogno di riposo per la mia anima. Mi chiudo nella mia stanza, è buono. Prego, è buono. Leggo la Bibbia, è buono. Medito, ed è buono. E mi fermo lì. E a volte vi è capitato che non vi sentite riposati dopo questo bellissimo tempo con Dio? Perché? Perché probabilmente non ho camminato alla presenza di Dio. Camminare è azione. Camminare è impegno. Io voglio fare con voi una piccola parentesi, molto molto importante, che è una parentesi che in parte capiremo, in parte non potremo capire, perché va oltre la nostra capacità mentale, intellettiva. È un po' come l'eternità. Non la possiamo definire appieno. Dio ha messo in noi un seme per farci comprendere quello che è l'eternità, per farcela accettare più che altro, ma non possiamo comprenderla appieno, così come non possiamo comprendere appieno la presenza costante, la onnipresenza di Dio. Quando ho detto che la mia anima si allontana da Dio, noi molto spesso cosa pensiamo? Dio qui, persona ad esempio, e io che mi allontano, che volto le spalle. È un'immagine bellissima. O quando ci pensiamo, bellissima nel senso che ci... brutta per realtà, ma bella perché ce la rappresenta come realtà. Quando ci pensiamo vicini a Dio, come ci pensiamo invece? Fra le sue braccia, o forse mano a mano, o lui che ci mette la mano sulla spalla. Noi diamo una certa fisicità alla nostra vicinanza a Dio. Ma in realtà è una bella immagine, che anche la Bibbia molto spesso utilizza, se pensiamo alla figura del figlio al prodigo, a questo ritorno al padre, è molto fisica l'immagine. Ma in realtà è qualcosa che serve soltanto a noi, ma non è effettivamente così. Permettetemi di dire questo. Dio è presente nella stessa quantità, in tutta la sua pienezza, in ogni luogo e in ogni situazione. Come Dio è presente qui, in tutta la sua pienezza, è presente anche fuori lì, ora, in questo istante. Come Dio è presente qui, in tutta la sua pienezza, ora, è presente nel posto più buio e più oscuro di questo mondo. In tutta la sua pienezza. Non è che Dio ha un piede negli Stati Uniti e un piede in Europa e una mano sul Polo Nord. No, Dio è completamente in tutto. Non posso dire lo spazio. Perché anche l'universo è limitante. L'universo darebbe una dimensione a Dio e ancora di più. Non lo possiamo comprendere. Dio è molto vicino a noi, in tutta la sua pienezza. Ho trovato questa frase di un teologo, e la voglio leggere, un teologo del XIX secolo, Spurgeon, e dice: noi crediamo che Dio riempie cielo, terra e inferno. Ed è scritto nella Bibbia, nell'Apocalisse, non è una bugia. Che Egli si trovi nello stesso spazio delle sue creature ed anche lo spazio dove vi sono le sue opere è colmo della sua presenza. Le profondità delle rocce terrene, il mare in tempesta, il solido granito sono piene della sua presenza. E non solo negli spazi aperti, ma penetra in ogni luogo, abbondando ovunque in ogni cosa e riempendo ogni cosa della sua presenza. Salmo 139,7. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Isaia 57,15-16. Io dimoro, è Dio che parla, io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti. Dio è presente ovunque, nella stessa quantità. Attenzione, non parliamo di panteismo, parola difficile. C'è questa filosofia che dice Dio è in tutto, quindi tutto è simile a Dio. No, non stiamo dicendo questo. Non stiamo dicendo che la creatura è simile a Dio, ma stiamo dicendo che tutto il suo creato è manifestazione della sua presenza. Anche i luoghi più scuri, anche i luoghi più tenebrosi, vedono una presenza costante di Dio. E allora come può essere che la mia anima si allontana da Dio? Che tipo di allontanamento è quello di cui parla la Bibbia? Perché Dio è vicino sempre a me come a tutti gli uomini su questa terra, a me così come a tutte le creature presenti. È un allontanamento che parla di impegno, o meglio, è un allontanamento dovuto al fatto che c'è mancanza di impegno ad andare alla ricerca di Dio. Vogliamo riposo per la nostra anima? Dobbiamo andare alla ricerca di Dio. Questo è il segreto, questa è l'azione della conoscenza che abbiamo ricevuto fino ad oggi. Vi ho riempiti di conoscenza, ok? Spero. È molto complessa la cosa, la potete continuare a casa vostra a studiare. Ma sulla base di questa conoscenza, nata dal senso di gratitudine che noi dobbiamo provare nei confronti di Dio, per il suo intervento, relativamente, per il fatto che lui è Dio, sì. Sulla base di questo, a noi è chiesto di fare un'azione, di camminare alla presenza di Dio. Volete venire con me ancora più nel profondo di questo concetto? Andiamo in un brano della Bibbia, che è tra i più, come dire, scomodi, credo. C'è un bel popolo, il popolo di Israele, che digiuna per Dio. Isaia 58. E Dio inizia con un ammonimento chiaro, preciso. Voi cercate la mia presenza, voi volete i miei consigli, voi mi invocate e fate digiuno per questo. Ma mentre fate digiuno, Dio dà un'immagine di persone che in esteriorità vivono una certa spiritualità. Ma poi le loro azioni, il loro essere quotidiano, il loro parlare, il loro giudizio nei confronti del prossimo è in perfetta contraddizione con quello nel quale dovrebbero, come dire, credere, quello per cui dovrebbero vivere, quello che dovrebbero fare per Dio. E Dio dice, questo digiuno a me non mi piace proprio. Ma c'è un digiuno, dice Dio, che mi piace. Ed è un digiuno che si collega a delle azioni molto pratiche. È sempre in Isaia 58 che Dio dice, se c'è qualcuno che toglie di mezzo il giogo, se c'è qualcuno che smette di puntare il dito, se c'è qualcuno che toglie di mezzo il parlare iniquo, se c'è qualcuno che risponde ai bisogni dell'affamato, se c'è qualcuno che dà risposta a chi ha un'anima afflitta, allora, leggiamo questi versi in Isaia, allora chiamerai e l'Eterno ti risponderai, griderai ed egli dirà eccomi. Allora la tua luce sorgerà nelle tenebre e la tua oscurità sarà come il mezzogiorno. L'Eterno ti guiderà di continuo, sazierà la tua anima nei luoghi aridi e darà vigore alle tue ossa. Se cammini, se agisci, in che termini? In termini di giustizia, quella divina, in termini di umiltà, quella che ci ha insegnato Gesù, in termini di misericordia, lo stesso amore che Dio ha nei nostri confronti. Quando noi agiamo in questa maniera, e vediamo, dice Dio, se io non mi mostro a voi in tutta la mia potenza, la presenza è costante. Ciò che varia è la possibilità che noi diamo a Dio di poter beneficiare della potenza della sua presenza. È lì che le cose cambiano. Ripeto, pregare è essenziale, leggere la Bibbia è essenziale, vivere la nostra spiritualità a modo nostro con Dio è bellissimo, ma a quello Dio dice dovete far corrispondere qualcosa, che è perfettamente l'identità del cristiano. Gesù ha dato questo esempio. Parlando proprio del regno dei cieli, lui diceva, entreranno nel regno dei cieli quelli che mi avranno dato da bere e da mangiare. E gli chiedono, ma che stia a dire? Quando mai ti abbiamo dato da bere e da mangiare? E lui dice, Gesù, ogni volta che lo avete fatto a uno di questi minimi. È azione pratica. Ci sono dei versi in Colossesi che dicono, ogni cosa che fate in parole e opere, fatele per il Signore, rendendo grazie a Dio Padre tramite Gesù. In tutto quello che fate, fatelo con il cuore, servendo Cristo e non gli uomini. Quei versi, capite come prendono significato e senso in quello che ci siamo detti fino ad ora? Il nostro servizio, il nostro agire, il nostro vivere è perfettamente l'occasione, lo strumento, l'opportunità che abbiamo di poter far vedere quanto potente è la presenza di Dio fra noi. Vuoi vedere Dio presente nella tua vita? In manifestazione? Cammina, agisci. Il regno di Dio arriva dove c'è qualcuno che agisce. Questa è la verità. Il regno di Dio ha bisogno di qualcuno che agisca in maniera tale che la manifestazione di Dio possa essere piena, totale. La sua presenza, lo ripeterò all'infinito, è costante. Immagina il luogo più brutto in questo mondo, un posto dove c'è la guerra probabilmente, dove c'è una malvagità assurda. Sapete che Dio lì è completamente presente? Che cosa è venuto meno? Persone, uomini, che in quel posto si sono reputate, come dire, sacrificio vivente, fatemi usare questa parola, nel dire, Signore, io ti cerco con tutto me stesso, affinché la potenza della tua presenza qui in questo posto possa cominciare a fare la differenza. Sei stanco? Sei appesantito? Sei sfiaccato dalla vita? Sembra lo spot pubblicitario. C'è solo una sola soluzione. E non è il tuo o il mio problem solving. Noi siamo bravissimi a trovare le soluzioni. Bravi, troppo. Io sono bravissimo, cioè. Voi datemi un problema, io mi ingegno la notte, il mio cervello, mentre dormo il mio cervello elabora e la mattina mi sveglio con una soluzione. Non è una mia capacità, è una capacità che Dio mi ha dato, ma sapete quanto è fastidiosa per me quella stessa capacità se non la sottometto a Dio? Diventa la maniera per trovare le mie soluzioni e per dare a me stesso la soluzione di riposo alla mia anima. Il riposo di cui ho bisogno è quel predispormi e fermarmi con Gesù e dire poi a un certo punto ok, incomincio a camminare, incomincio ad agire nella pienezza delle cose che tu mi dai di poter fare. Qualche domenica fa, sempre due domeniche fa, la sera Mario predicava sul camminare, su Gesù che camminava. Vi voglio leggere questo pensiero, è di un autore. Lui non ha intenzionalmente messo il nome Gesù in questa sua. È un libricino che lo trovate anche online tranquillamente come PDF. Non parla di Gesù, ma si capisce perfettamente che sta parlando di Gesù. E scrive questa cosa a un certo punto. Il titolo del libro è L'uomo che cammina. Cammina, senza sosta, cammina. Va qui e poi là. Trascorre la propria vita su circa 60 chilometri di lunghezza e 30 di larghezza e cammina. Più avanti poi scrive, se ne va a capo scoperto. La morte, il vento, l'ingiuria, tutto riceve in faccia senza mai rallentare il passo. Si direbbe che ciò che lo tormenta è nulla rispetto a ciò che spera, che la morte è nulla più di un vento di sabbia. Che vivere è come il suo cammino, senza fine. Gesù ha camminato. E il fatto che abbia camminato non è semplicemente perché non c'erano le macchine, ma perché ci ha voluto lasciare un esempio molto, molto pratico di come lui ha agito su questa terra affinché la presenza del Padre arrivasse in manifestazione in ogni luogo dove lui andava. Io e te siamo chiamati a camminare nella stessa condizione in cui Gesù ha camminato, prendendoci schiaffi in faccia dalla vita, probabilmente, eppure non disperando. Stanchi, anche se la parola ci parlava in Isaia di nuovo vigore nelle ossa, quindi nuove forze fisiche che ci vengono ridate quando ci adoperiamo per Gesù, ma al tempo stesso forti dentro. Le mie gambe a volte non ce la fanno, ve lo dico, specie in questa settimana a volte le mie gambe non ce la facevano più, ma nel mio spirito, nella mia anima, ho trovato il riposo sapendo che stavo facendo le cose gradite al Padre, e lì trovavo riposo, e lì gioivo, e lì vedevo le cose diversamente, lì davo nuovo senso alla mia esistenza, e lì ho chiesto perdono a Dio, e lì ho trovato ristoro, e lì qualcuno mi ha ricordato la mia identità in Cristo. Quando? Quando ho fatto qualcosa, quando mi sono messo in cammino. Fermarsi e lasciare andare, fermarsi e smarrirsi. Perché? Perché il regno di Dio è in divenire, è in crescita, l'abbiamo cantato, è crescita e andare avanti. Se io mi fermo a un certo punto, il regno di Dio lo vedrò sempre più lontano da me. È un'occasione persa? Certamente, in parte, non lo so, posso recuperare? Sì. Recuperiamo in Cristo. Noi abbiamo un'unica e sola soluzione, Gesù Cristo. È Lui la via che ci porta a riconoscere l'onore della presenza di Dio intorno a noi, in noi, grazie al suo Spirito. Ed è Gesù, ancora nuovamente, la via sulla quale possiamo camminare per poter compiere le opere che il Padre ha pensato per noi. È nel compiere quelle opere che troviamo ristoro per la nostra anima, che troviamo identità, che troviamo senso, significato, al perché siamo anche qui stamattina. Io vorrei pregare con voi, prendermi un tempo di preghiera, dove parlarne con Dio un attimo e dare risposta, se queste sono le tue due domande o una domanda. Da una parte ti dico, hai bisogno di riposo per la tua anima? Allora, vai da Gesù. Lui è la via sulla quale devi camminare per poter avere accesso alla potenza, alla benedizione della presenza di Dio nella tua vita. Dall'altra parte un'altra domanda, vuoi di più della presenza di Dio nella tua vita? Prega, leggi, medita la sua parola, ma non ti fermare lì, agisci, cammina, perché altrimenti quella lettura sarà una lettura purtroppo troppo sterile, quella lettura non porterà frutto. Il tempo che noi passiamo nella nostra cameretta serve per poi andare fuori in questo mondo. Il Salmo terminava, io cammino alla presenza di Dio, dove? Sulla terra dei viventi, non nella mia cameretta, non nella chiesa, ma in quel mondo che tanto non ci piace, in quel mondo che è tanto scomodo, in quel mondo che ci opprime, in quel mondo che ci schiaccia, che ci sembra nemico molte volte, eppure io e te possiamo camminare lì nell'autorità di Cristo Gesù. Agisci nella sua presenza. Prendiamo queste due domande e riflettiamoci un attimo, proprio 30 secondi. Michea 6:8. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Se con me vuoi camminare anche tu in questi termini, in giustizia, in misericordia e in umiltà, io ti chiedo semplicemente, alzati. È la prima azione che puoi fare questa mattina, per dire io voglio camminare in questi termini, sapendo che in questo ha avrò la scoperta più grande che ci possa essere, la potenza della presenza di Dio rivelata nella mia vita e attraverso la mia vita. 10 secondi per alzarsi, perché azione è veloce, non è un'azione lenta. Pregate con me. Signore Gesù, noi ti ringraziamo fermamente per la tua presenza nella nostra vita, noi ti ringraziamo per come tu hai conquistato per noi, nell'autorità, nei luoghi celesti, un'identità di figli di Dio, e noi vogliamo vivere in virtù di quella identità, quello che tu ci dai di poter essere qui, su questa terra, oggi, al presente. Io prego per ogni singola persona qui presente, così come lo prego per me. Io ti prego, Spirito Santo, rivelaci il Padre di più e ancora di più. Rivelaci cosa significa essere alla sua presenza, e ancora di più mobilita in noi una forza di volontà, uno spirito volenteroso che ci porta ad agire, a camminare in quei termini come la tua parola ci indica. Noi vogliamo essere per noi stessi e per questo mondo strumenti di benedizione. Vogliamo essere strumenti di conoscenza, vogliamo dimostrare la sapienza divina, vogliamo vedere l'opera tua compiersi, e ti preghiamo, ti chiediamo, se vuoi, fallo attraverso di noi, fallo attraverso le nostre mani, fallo attraverso le nostre parole, fallo attraverso i nostri progetti, quelli che noi, le cose che possiamo pensare interiormente, fallo attraverso la nostra preghiera, fallo attraverso il nostro abbraccio. C'è un mondo che ha bisogno di te, così come noi abbiamo bisogno di te. E tu rispondi ugualmente allo stesso bisogno. E per chi oggi potrà conoscere te attraverso di noi, io ti prego, mobilitaci in questo. E grazie perché tu ci ristori, grazie perché ristori la nostra anima, grazie perché riempi ognuno di noi di te, della tua pienezza. Ed è questo ciò che fa la differenza, è questo ciò di cui abbiamo bisogno. E ti ringraziamo perché nella tua abbondanza tu riempi pienamente ognuno di noi del tuo riposo. Riposo che troviamo solo ed esclusivamente alla tua presenza. Vogliamo camminare con te, vogliamo pensare con te, vogliamo agire con te, vogliamo onorare te con la nostra vita. Grazie Signore, perché davanti a te questa mattina c'è una chiesa che si arrende, ma c'è anche una chiesa che si alza in compattezza, in unione, per poter andare avanti e fare le cose che tu hai in serbo. Venga il tuo regno attraverso queste vite, attraverso queste preghiere, attraverso queste azioni. Grazie Signore per questo grande onore. Amen.